Capitolo 14. Miscellanea di detti pedagogici sciolti. Disse il profeta Muhammad, che Allah lo benedica e l'abbia in gloria, un uomo si stava recando a fare visita a un amico e Allah mise sulla sua strada un angelo. L'angelo chiese all'uomo: «Dove stai andando?» L'uomo rispose: «Vado a far visita a un fratello». L'angelo chiese: «Per chiedergli un favore?» L'uomo rispose: «No». L'angelo chiese: «Perché è un tuo parente?» L'uomo rispose: «No». L'angelo chiese: «Perché vuoi ringraziarlo d'un favore che hai ricevuto da lui?» L'uomo rispose: «No». L'angelo allora chiese: «Perché vai a visitarlo?» Rispose l'uomo: «Perché lo amo a causa del suo amore per Allah». A questo punto l'angelo disse: «Sappi che è stato Allah a mandarmi per farti sapere che egli ti ama, poiché tu ami quel tuo fratello a causa del suo amore per Allah. Sappi infine che Allah ti ha promesso il paradiso». Disse, che Allah lo benedica e l'abbia in gloria: «La solitudine è meglio di una cattiva compagnia, ma una buona compagnia è meglio della solitudine. Il silenzio è meglio di una cattiva parola, ma una buona parola è meglio del silenzio». Disse, che Allah lo benedica e l'abbia in gloria: «Trattate le donne con estrema delicatezza, poiché la donna fu creata da una costola. La costola è curva e se cercate di raddrizzarla si spezza. Per questo motivo tenetele come sono e trattatele con estrema delicatezza». Disse, che Allah lo benedica e l'abbia in gloria: «La vita è gioia e la gioia più bella della vita è una donna virtuosa». Disse, che Allah lo benedica e l'abbia in gloria: «La tomba è la prima tappa del viaggio nell'eternità». Disse, che Allah lo benedica e l'abbia in gloria: «I buoni pensieri nascono dalla buona adorazione». Disse, che Allah lo benedica e l'abbia in gloria: «All'incontro con Allah è preferibile andarci da povero che da ricco». Disse, che Allah lo benedica e l'abbia in gloria: «Ricordate con frequenza ciò che distrugge i godimenti». Disse, che Allah lo benedica e l'abbia in gloria: «Chi sa tacere si salverà». Disse, che Allah lo benedica e l'abbia in gloria: «Quando vedete un uomo indifferente alle cose del mondo e di poche parole, avvicinatevi a lui, poiché ha ricevuto la sapienza». Disse, che Allah lo benedica e l'abbia in gloria: «Il vero sapiente è colui che, se la gente lo cerca per imparare, li arricchisce con la sua scienza, mentre se la gente non lo cerca, ne approfitta per arricchire se stesso». Disse, che Allah lo benedica e l'abbia in gloria: «Come la pioggia fa germogliare la vegetazione, così il canto fa germogliare nel cuore l'ipocrisia». Disse, che Allah lo benedica e l'abbia in gloria: «Per ogni musulmano una parola di sapienza è come la pecora che il pastore ha sbarrito, dovunque la trova la prende». Disse, che Allah lo benedica e l'abbia in gloria: «L'amore per qualcosa ti rende cieco e sordo». Disse, che Allah lo benedica e l'abbia in gloria: «Chi non ha compassione per il prossimo non è degno di compassione». Disse, che Allah lo benedica e l'abbia in gloria: «Chi desidera che Allah esaudisca la sua preghiera nei momenti difficili, lo preghi nel momento in cui tutto va bene». Disse, che Allah lo benedica e l'abbia in gloria: «Sii leale verso chi ti ha dato fiducia e non tradire chi ti ha tradito». Disse, che Allah lo benedica e l'abbia in gloria. Chi non ringrazia gli uomini non ringrazia nemmeno Allah. Disse, che Allah lo benedica e l'abbia in gloria, chi chiede la restituzione del dono che ha fatto è come il cane che si rimangia ciò che ha vomitato. Non c'è per noi paragone peggiore. Disse, che Allah lo benedica e l'abbia in gloria, per ogni cosa c'è una chiave, e l'amore per i poveri è la chiave del paradiso. Disse, che Allah lo benedica e l'abbia in gloria, tutti i figli d'Adamo sono peccatori, e i migliori sono quelli che si ravvedono. Disse, che Allah lo benedica e l'abbia in gloria, chi mangia e ringrazia è come chi digiuna e pazienta. Disse, che Allah lo benedica e l'abbia in gloria, quando un fratello vi chiede consiglio, consigliatelo per il meglio. Disse, che Allah lo benedica e l'abbia in gloria, ci sono cinque cose che vengono prima di cinque altre, e su di esse dovrai riflettere: la giovinezza prima della vecchiaia, la salute prima della malattia, la ricchezza prima della povertà, la quiete prima dell'azione e la vita prima della morte. Disse, che Allah lo benedica e l'abbia in gloria, quando il credente commette un peccato, la purezza del suo cuore è contaminata da una piccola macchia nera. Se il credente si allontana dal peccato e, dopo essersi pentito, chiede perdono ad Allah, la piccola macchia nera scompare. Se al contrario persiste nel peccato, altre piccole macchie nere si formano sul suo cuore fino a coprirlo tutto. Disse, che Allah lo benedica e l'abbia in gloria, in zona periferica, nel paradiso, viene costruita una magione per chi abbandona una menzogna. In zona centrale, nel paradiso, viene costruita una magione per chi, pur avendo ragione, abbandona una contesa. Sempre nel paradiso, nei quartieri alti, viene costruita una magione per chi migliora costantemente la sua condotta. Disse, che Allah lo benedica e l'abbia in gloria, ciascuno di voi deve essere uno specchio per il fratello, e se vede che in lui c'è qualcosa che non va, deve correggerlo. Disse, che Allah lo benedica e l'abbia in gloria, il dono migliore che un padre fa a suo figlio è una buona educazione. Disse, che Allah lo benedica e l'abbia in gloria, rendete facili le cose, non rendetele difficili. La gente, rallegratela, non fatela scappare. E il migliore di voi è colui che, quando lo vedete, suscita in voi il ricordo di Allah.